giornale radio del Friuli Venezia Giulia. In Consiglio regionale oggi la commemorazione di Silvio Berlusconi, con un distinguo e polemiche. Mentre scattano settimane di cassa integrazione all'Electrolux di Porcia, dalla Cina rimbalza la notizia che il colosso asiatico Midea non sarebbe più interessato all'acquisizione del gruppo svedese. Oltre ad un anno di distanza dalla scomparsa di Liliana Resinovic, la magistratura ordina il sequestro dei telefoni cellulari di Sebastiano Visentin, marito di Lilli, e di Claudio Sterpin, l'uomo con il quale la donna sarebbe dovuta andare a vivere. Per far fronte alla crisi della carta, la cartiera Mondi di Duino, c'è un accordo per individuare entro l'anno una settantina di esuberi. Anche il mondo della pesca di Marano Lagunare si mobilita contro il progetto europeo di limitare la pesca a strascico. La testimonianza di Ludovica, 23 anni e una vita da anoressica, le prese con un sistema sanitario che non sa rispondere ai suoi problemi. A San Vito al Tagliamento, in estri di partenza, la 7ª edizione del concorso Piccolo Violino Magico, dedicato ai violinisti fino ai 13 anni. Alle 12:31 minuti e 28 secondi, ancora un cordiale buongiorno da Anna Vitaliani e Armando Mucchino, a voi con le notizie della TGR del Friuli Venezia Giulia. Oggi in Consiglio regionale, lo avete sentito dai titoli, era programmata una commemorazione del defunto Silvio Berlusconi e al momento di un minuto di silenzio il consigliere di Open FVG Furi Onsel non si è alzato in piedi, provocando più di una reazione in aula. Il consigliere Furio Onsel, Open Sinistra FVG, sceglie di non alzarsi in piedi durante il minuto di silenzio per la commemorazione per la morte di Silvio Berlusconi. La reazione della maggioranza è forte, ma lo è soprattutto quella del presidente della regione Fedriga. L'aula è svilita dal suo comportamento e per questo io chiedo scusa ai cittadini del Friuli Venezia Giulia. Sono le parole che risuonano tra i banchi dei consiglieri e quelli degli assessori. Fedriga non si ferma, aggiunge che Onsel avrebbe potuto almeno alzarsi in piedi e mostrare rispetto per chi ha guidato il paese per tanti anni. C'è anche l'assessore Riccardi ad esprimersi in modo molto critico nei confronti di Onsel, a cui non viene data la parola perché non previsto dal regolamento dell'aula. C'è bagar quindi la sospensione della seduta. Da aggiungere che poco prima Martinez, PD, aveva scelto di non essere in aula durante la commemorazione, mentre Capozzi, Movimento 5 Stelle, non ha partecipato alla commemorazione mentre era in aula e in piedi durante il minuto di silenzio. In avvio, il profilo dell'ex premier e leader di Forza Italia è stato tracciato dal presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, che ha ricordato la figura di Berlusconi che, ha detto da imprenditore e da politico, ha segnato in modo profondo la vita del nostro paese dagli anni Ottanta ad oggi. Dopo la commemorazione di Berlusconi c'è stato il ricordo di Antonio Comelli, morto 25 anni fa. Comelli è stato presidente della giunta regionale dal 1973 al 1984. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Midea Group Co., il colosso cinese dell'elettrodomestico, non avrebbe più mire di acquisizione di Electrolux. Lo si legge sul sito di Bloomberg mentre scatta la cassa integrazione nello stabilimento di Porcia. Electrolux avvia l'iter per la richiesta di cassa integrazione ordinaria senza preventivo accordo con le RSU. Intanto il gruppo cinese Midea fa un passo indietro sull'ipotesi di acquisizione, che peraltro non era mai stata confermata ufficialmente. La cassa integrazione, motivata con la momentanea carenza di commesse, interesserà un numero massimo di 790 operai, a partire dal 17 luglio e fino al 1 ottobre, e arriva dopo il no della RSU alla richiesta di attivare, per tutto il mese di luglio, la cassa integrazione con riduzione di orario. Più o meno nelle stesse ore l'agenzia Bloomberg, la stessa che nei mesi scorsi aveva dato conto della trattativa in corso a partire da questa primavera, ha annunciato, citando fonti riservate, che il gruppo Midea ha abbandonato il suo proposito di acquisizione. A ostacolare il raggiungimento di un accordo sarebbero state soprattutto le misure protezionistiche in Europa e negli Stati Uniti, nonostante la produzione di lavastoviglie e frigoriferi non rappresenti un possibile fattore di rischio nazionale. A ostacolare il raggiungimento di un accordo sarebbero state soprattutto le misure protezionistiche in Europa e negli Stati Uniti, nonostante la produzione di lavastoviglie e frigoriferi non rappresenti un possibile fattore di rischio per la sicurezza nazionale. Il riferimento è con tutta probabilità all'ipotesi di esercitare la cosiddetta Golden Power che solamente pochi giorni fa aveva evocato il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, nel suo incontro con le organizzazioni sindacali. Il passo indietro di Midea non chiude però tutte le porte, secondo l'agenzia di informazione. L'interessamento del gruppo cinese a Electrolux non sarebbe infatti recente, potrebbe essere preso nuovamente in considerazione in futuro. Porcia, La Razzani, TGR, Friuli Venezia Giulia. Si va verso 70 esuberi con incentivi all'uscita alla cartiera Mondi di Duino. Un accordo in merito è stato raggiunto tra la società che opera nel settore delle carte patinate a uso grafico, le sigle sindacali SL, CGL, FISTEL, CISL, WILCOM, WIL e le RSU. Secondo quanto stabilito, le fuoriuscite verranno entro fine 2023. Da marzo, nello stabilimento che occupa nel complesso 208 dipendenti, è in atto il contratto di solidarietà per scongiurare licenziamenti. All'origine del nuovo accordo c'è una situazione congiunturale negativa che non lascia prevedere una ripresa significativa del mercato. Pertanto la società si è ritrovata nella necessità di rivedere la propria struttura organizzativa, produttiva e occupazionale. Secondo quanto si apprende da fonti sindacali, lo stabilimento di Duino è uno dei più colpiti dalla crisi della produzione di carta iniziata lo scorso autunno. L'accordo ora raggiunto, spiegano le fonti sindacali, prevede fuoriuscite consensuali con naspi e incentivi rivolti in particolare a dipendenti vicini alla pensione o ad altri che intendano chiedere aspettativa per svolgere momentaneamente altri lavori. Il sito di Duino era stato ceduto al gruppo Mondi dalla Burgo lo scorso gennaio. È arrivata oggi la lettera di mancato rinnovo del contratto per 69 OSS, operatori sociosanitari, in servizio in Asugi, negli ospedali di Trieste e Gorizia, a dare notizie ai sindacati. La regione, ci spiega Giorgio Jurkic della CISL, ci ha confermato che è stato superato il vincolo di spesa per le nuove assunzioni. Almeno metà di queste persone avrebbero diritto all'assunzione a tempo indeterminato, poiché lavorano con contratti a termine anche da più di 3 anni. Proclamato lo stato di agitazione da parte dei sindacati, che chiedono anche un incontro urgente con il prefetto. Il contratto di queste persone scadrà il 30 giugno. A un anno e mezzo di distanza dalla scomparsa di Liliana Resinovic, la squadra mobile di Trieste ha sequestrato i telefoni cellulari di Sebastiano Visentin, marito di Lilli, e di Claudio Sterpin, l'uomo con il quale la donna sarebbe dovuta andare a vivere in esecuzione delle disposizioni del GIP Luigi Dainotti contenute nell'ordinanza di approfondimento delle indagini. Lo riporta il quotidiano Il Piccolo, oggi in edicola, secondo il quale il procuratore capo Antonio De Nicolo avrebbe già individuato il professionista a cui affidare la nuova perizia medico-legale. Sarà quest'ultimo a decidere se riesumare o no il corpo di Liliana. La polizia aveva già acquisito la copia forense del traffico telefonico delle due utenze, ma i dispositivi non erano mai stati sequestrati, sebbene, scrive sempre Il Piccolo, siano stati intercettati. Ieri si è tenuta davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine l'udienza di convalida dell'arresto del 51enne residente nella città ducale, che nel pomeriggio di domenica era stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio per l'accoltellamento avvenuto all'interno del Parco Italia di Cividale del Friuli di un operaio trentenne originario del Marocco e domiciliato a Udine. Gli uomini dell'arma in breve tempo erano riusciti a individuarlo e arrestarlo e poi ricostruito i momenti dell'aggressione. Il giudice per le indagini preliminari, nel convalidare l'arresto dell'uomo, ha accolto le richieste del PM e disposto la custodia cautelare in carcere dell'indagato. Quasi un quintale di vongole pescate illegalmente sono state sequestrate dal personale dell'ufficio circondariale marittimo di Grado durante un'operazione che si è svolta alle prime ore dell'alba di ieri in zona Punta Sdobba, in prossimità della foce dell'Isonzo. I militari della Guardia Costiera hanno intercettato 2 pescatori sportivi a bordo di un'unità da diporto con più di 75 kg di bivalvi, ben al di sopra dei 5 kg a testa concessi per la pesca ricreativa, che probabilmente erano destinati al commercio illegale. L'intervento ha scongiurato la successiva commercializzazione di un prodotto non idoneo al consumo umano, in quanto raccolto lungo aree proibite, poiché non classificate secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria. Elevate 2 sanzioni amministrative per oltre 8.000 euro con il sequestro del pescato. Dopo i previsti controlli sanitari, le vongole sono state rigettate in mare. Buona parte del pescato che transita per il mercato ittico di Merano Lagunare arriva dalla pesca a strascico, che ora l'Unione Europea vorrebbe vietare. Siamo andati a sentire come ci si sta organizzando a Merano per contrastare questo progetto. Domani in Friuli Venezia Giulia si fermeranno in protesta le 16 imbarcazioni che fanno pesca a strascico a partire dalle 3 miglia dalla costa. Al mercato del pesce di Marano Lagunare, il principale in regione, non arriverà al mattino più del 50% del pescato. Le marinerie si mobilitano a livello nazionale per dire no ad un piano, allo studio della Commissione Europea, di limitare questo tipo di attività nel 2030 alle aree marine protette e dal 2035 in tutte le zone di pesca. Da Bruxelles ci fanno sapere che spetterebbe agli Stati membri implementare ogni eventuale direttiva, iniziando le discussioni con i portatori di interesse dal 2024. Incontriamo Achille Genta, vicepresidente regionale di Fedagri Pesca, al mercato di Marano, dove in mattinata arriva il pesce e nel primo pomeriggio viene venduto all'asta, ai dettaglianti, alle pescherie, ai ristoratori e ai grossisti. Un eventuale stop, dice, avrebbe impatto non solo sulle 16 imbarcazioni, ma sulle famiglie dei 2 o 3 marinai imbarcati, per ciascuna, e su tutto l'indotto. Riccardo Milocco, rappresentante di una cooperativa di piccola pesca, afferma che si punta il dito sul colpevole sbagliato. Nonostante anni di limitazioni alla pesca, non si vedono miglioramenti. Lo stock ittico è sempre più ridotto, anche a causa dei cambiamenti ambientali che portano nei nostri mari specie non autoctone. Il granchio blu, che danneggia i molluschi, gli ctenofori simili a delle meduse, il pesce serra, tipico di acque tropicali e subtropicali. Teme l'impatto su tutto il settore, Milocco. Un piccolo pescatore, aggiunge, non è in grado di ribaltare l'aumento di costi per nafta, reti e attrezzature sul prodotto. L'anno scorso i ricavi sono diminuiti del 10% e i costi triplicati. Lo smantellamento della pesca a strascico causerebbe peraltro, sottolineano le varie sigle che aderiscono alla protesta, un aumento delle importazioni da paesi in cui la pesca non rispetta le nostre legislazioni. Antonio Nicoletti, responsabile nazionale aree protette e biodiversità di Lega Ambiente, si dice invece a favore degli intendimenti europei. Lo strascico è un modo superato di fare pesca, soprattutto in un mare come l'Adriatico, che, facendo le dovute proporzioni, è l'area con maggiore intensità di pesca al mondo, dice Nicoletti, uno dei 25 hotspot mondiali dove è più elevata la pressione antropica. Marano Lagunare, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sono le 12.42, diamo uno sguardo al meteo, cielo da sereno a poco nuvoloso sulla nostra regione. Le temperature registrate alle ore 11, Trieste 27 gradi, mare calmo con temperatura di 25 gradi e mezzo, Udine 30 gradi, Pordenone Gorizia 29 gradi e mezzo, Tolmezzo 27 gradi, Tarvisio 25 gradi e mezzo, Forni di Sopra 24 gradi e mezzo, Sappada 23 gradi e mezzo, Piancavallo 23 gradi, Monte Lussari e Monte Zoncolan 21 gradi e mezzo, tornando sulla costa Lignano 30 gradi e mezzo, Grado 26 gradi e mezzo, temperatura del mare delle due località 27 gradi. Ed ora le previsioni. Cielo sereno poco nuvoloso con caldo afoso, specie in pianure di pomeriggio. Sulla costa la brezza mitigherà il caldo pomeridiano. Temperature eccezionalmente elevate ad alta quota con 20 gradi a 2000 metri e zero termico a 4500. Domani variabile, probabili rovesci e temporali sparsi, possibile qualche temporale forte. Temperatura massima in calo. Dipendenza dai social che lanciano messaggi fuorvianti all'apparenza innocui in realtà pericolosissimi. Sistema sanitario che non risponde con tempestività alla richiesta di aiuto. Ludovica, 23 anni, racconta la sua vita ad anoressica e denuncia cosa non funziona nel sistema di assistenza per i disturbi del comportamento alimentare, a partire dall'assenza di un centro residenziale di cura. È necessario infatti andare fuori regione per trovarlo. Ascoltiamola. Occhi sorridenti, modi gentili e grinta da vendere. Ho una voglia matta di guarire, ci ripete più volte Ludovica Graberi, 23 anni, udinese, consapevole di avere una storia lunga davanti, quella dell'uscita da una malattia che da 3 anni le ha sconvolto la vita, l'anoressia. La incontriamo perché con coraggio ha deciso di denunciare l'assenza di un sistema d'assistenza adeguato a fronte di questi disturbi che, lo dicono i numeri, coinvolgono moltissimi giovani, più 230% all'incidenza post-pandemia. Ludovica, seguita dal 2020 al centro di disturbi alimentari di Udine, dice: ringrazio i sanitari, ma le risorse sono totalmente insufficienti. Una ragazza che soffre di disturbi alimentari non può andare dal nutrizionista una volta ogni 3 mesi in un centro che cura i disturbi alimentari. Dovrebbe andare molto più spesso e soprattutto al bisogno, non al primo posto libero che ho. Quindi non è un problema di come lavorano i medici, ma il problema è che non possono lavorare perché non sono messi nella condizione di farlo. Ludovica, oggi energica e sorridente, in verità appena 2 mesi fa ha subito un ricovero di 12 giorni in ospedale, necessario a rimetterla in piedi. Da lì la convinzione di aver bisogno di una struttura residenziale che possa accoglierla, struttura che in Friuli Venezia Giulia non c'è. È in lista d'attesa alla Casa delle Farfalle di Porto Gruaro, sotto l'ULS Veneta. Mi aiuterebbe, dice, ad uscire dagli schemi mentali legati al cibo che mi sono autoimposta, da cui non riesco più ad uscire. Credo proprio di aver bisogno di staccare un po' da casa, non per i miei genitori che sono fantastici, se fosse per me non li lascerei mai, cioè neanche a 60 anni, però io con loro mi sento libera di poter urlare, di potermi rifiutare di mangiare, e loro non sanno come gestirmi ovviamente, quindi penso che il ricovero mi servirà perché io ho la voglia di guarire, ma mi manca un po' il mezzo per farlo, e comunque avere i pasti assistiti, avere la psicologa a pranzo, tutti i pasti sicuramente mi aiuterà da questo punto di vista. Stamane a Buongiorno Regione la gastroenterologa del Burlo, Grazia Di Leo, ha raccontato la sua esperienza a fianco di queste ragazze, confermando le difficoltà del sistema. Ai nostri microfoni l'assessore alla sanità Riccardo Riccardi ha promesso un importante finanziamento per la realizzazione del primo centro residenziale per questi disturbi che ancora manca in Regione. Accessi in aumento con il pronto soccorso, che nel post-Covid ha visto aumentare gli afflussi per ragazze e ragazzi con problemi di disturbi alimentari di oltre 3 volte. L'anoressia in Friuli Venezia Giulia riguarda tra le 1.500 e le 2.000 persone solo in età pediatrica, un numero enorme, specie se si aggiungono quelle sotto traccia. Il lockdown e la cultura dell'immagine su Instagram e TikTok hanno acuito il problema. Grazia Di Leo, responsabile gastroenterologia, ospedale Burlo Garofalo di Trieste. È cambiato nella testa che il Covid ha slatentizzato dei problemi che probabilmente prima c'erano, in qualche modo restavano sotto traccia. Queste ragazze sono ragazze ipercontrollanti spesso, e nel Covid, in cui la realtà è stata smembrata, l'unico controllo è il controllo del peso. Vede che c'è la gara per chi mangia di più, mangia di meno, chi pesa di meno, quindi si innesca all'interno un meccanismo complesso. In Regione il sistema non è sufficiente, come del resto non lo è nel resto d'Italia. Il Friuli Venezia Giulia ne è consapevole e proverà a invertire la rotta. Riccardo Riccardi, assessore alla sanità Friuli Venezia Giulia. Bisogna dare una solidità dei percorsi che fino ad oggi hanno avuto risposte insufficienti. Metteremo a disposizione le risorse per la struttura, e abbiamo già anche ragionato dell'equipe che si deve occupare di strutture che in questo momento non presentano una risposta residenziale, ed è questo che manca, e questo invece che va fatto. Fondamentale, come in tutti i casi di disagio, è il rapporto con la famiglia, dove anche qualche parola detta con le migliori intenzioni rischia di diventare un macigno per chi soffre di anoressia. I genitori devono essere subito coinvolti. Se la paziente o il paziente vive in famiglia, è logico che non è ovviamente la causa la famiglia, ma in questo contesto si è sviluppato il problema, e quindi anche la famiglia deve fare una terapia psicologica. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Le interviste integrali su questo tema le potete vedere e ascoltare nel nostro sito web, alla pagina della TGR FVG e sui nostri social. E ora andiamo a Lignano, dove da oggi iniziano gli incontri del premio Hemingway, appuntamento letterario, che è anche l'occasione per riscoprire il legame tra Lignano ed Ernest Hemingway, uno degli scrittori più noti e amati di sempre, che scoprì Lignano nel lontano 1954. Abbiamo intervistato Alberto Garlini, che è il presidente della giuria. Il tramonto sulla terrazza mare questa sera accenderà i riflettori sulla 39esima edizione del premio Hemingway e sull'architettura sociale catturata dall'obiettivo dell'architetto e fotografo trevigiano Marco Zanta. Il suo libro It's All One Song, pubblicato per la tedesca Hartmann, gli è valso il premio Hemingway Fotografia su proposta del giurato Italo Zanier. Gli incontri di venerdì sono dedicati a 2 personalità i cui destini sono contraddistinti dalla tenacia e dalla resilienza. Ci sarà l'iraniana attivista Shirin Ebadi, premio Nobel per la pace 2003, e il campione paralimpico Antonio Fantin. Siamo veramente onorati di avere il premio Nobel per la pace Shirin Ebadi, attivista per i diritti civili iraniana, avvocato, costretta all'esilio, vedendo imprigionati i suoi cari, andando lei stessa in prigione. Insomma, credo che sia un esempio per tutti noi che diamo spesso scontata la democrazia, non la è. Nei 120 anni della nascita del primo stabilimento balneare di Lignano è stato istituito il premio speciale Hemingway Lignano 120 anni di futuro e la giuria ha pensato che l'atleta di Latisana, Antonio Fantin, poteva ben rappresentare la voglia di futuro. Antonio Fantin, che ha trasformato appunto una disabilità in un'occasione per vincere una medaglia a Tokyo, è penso credo un esempio per tutti, motivo di ispirazione anche per tutti i giovani. Sabato gli incontri con lo storico Carlo Ginzburg e la scrittrice belga Amélie Nothomb. I fili che legano Ginzburg, uno dei maggiori intellettuali italiani, all'autore americano sono la passione di entrambi per l'arte e per la storia. E Nothomb e Hemingway? Sono due scrittori ovviamente diversi, anche se alcuni libri della Nothomb in qualche modo hanno qualcosa di vicino a Hemingway, no? Soprattutto nel nascondere l'evento fondamentale che era tipico di Hemingway. Nada Choc, TGR Friuli Venezia Giulia. Il concorso Piccolo Violino Magico arriva alla 7ª edizione, dedicato ai violinisti fino ai 13 anni, senza vincoli di provenienza e di nazionalità, ed entrerà nel vivo dal 4 al 9 luglio 2023 a San Vito al Tagliamento. La finale è attesa per il 9 luglio e arriverà dopo tre sessioni tra il 4 e il 7, nelle quali si svolgeranno le fasi del round eliminatorie, tre round eliminatorie. La competizione, che è stata ufficialmente presentata al pubblico e alla stampa ieri, è organizzata dall'Accademia d'Archi a Rigoni di San Vito al Tagliamento sotto la guida del direttore organizzativo Domenico Mason e il grande violinista Pavel Verinkov, capostipite della scuola russa che presiede la giuria. Ma ascoltiamo appunto da Domenico Mason da dove arrivano questi ragazzi che sono stati selezionati in un parterre di molti molti aspiranti. Sentiamo. Questi ragazzi arrivano veramente da tutto il mondo, molti dal continente asiatico o comunque sono ragazzi che studiano anche nelle università europee, ma anche di origine asiatica appunto, un italiano fortunatamente, e hanno una formazione violinistica di altissimo livello naturalmente e vengono scelti sulla base di video che loro ci inviano con due studi virtuosistici. È un brano di repertorio dal quale appunto noi li selezioniamo e li facciamo venire in loco per tre dure prove, difficili prove con programmi diversi, accompagnati dall'orchestra. Siete ormai alla 7ª edizione, alcuni di questi giovani talenti di fatto saranno diventati artisti importanti, famosi. Dove sono arrivati questi ragazzi? Li seguiamo nel tempo per due motivi, perché comunque abbiamo una nostra orchestra che lavora un po' tutto l'anno e quindi li reinvitiamo nel corso degli anni e alimentano la nostra stagione concertistica, ma anche quella di altre realtà regionali ed extraregionali. Ma poi li vediamo anche nei più importanti concorsi a livello internazionale e nelle sale di tutta Europa, di tutto il mondo ormai. Dicono sia uno degli strumenti più difficili, il violino, gli archi. Ma lo dicono con piena ragione, lo dico da violinista e da insegnante, perché soprattutto in una fase iniziale è molto impegnativo e è molto poco gratificante. La gratificazione per fortuna si ritrova poi in un secondo momento, perché dà molte possibilità, anche se non solistiche, anche di partecipare a musica da camera o la pratica orchestrale. Papa Francesco ha incontrato i rappresentanti della FDS provinciale di Udine, l'Associazione Friulana Donatori di Sangue. Il presidente Roberto Flora e il vicepresidente vicario Mauro Rosso hanno potuto accedere in Vaticano ad un'udienza particolare chiamata Bacio dell'Anello, un momento diretto a cui potevano partecipare solo due persone. È stato un incontro molto particolare e toccante, anche nella forma molto semplice, ha commentato Flora. Sembrava di parlare con una persona che conoscevi da anni, quasi un amico, molto interessato e attento a tutto ciò che spiegavi, il perché doniamo, la nostra cultura della donazione come popolo friulano, che per noi non è un semplice gesto, ma un esempio da trasmettere ai nostri giovani. L'udienza è stata concessa dopo che la FDS aveva inviato una lettera in Vaticano per segnalare l'importante traguardo dei 65 anni di attività e per risposta è giunto l'invito. Flora e Rosso hanno consegnato personalmente al Santo Padre il distintivo della goccia d'oro. Entro giugno si chiuderà il periodo nel quale possono essere pubblicati i reportage che partecipano alla 14ª edizione del concorso giornalistico annuale nazionale multimediale multilingue premio Simona Cigana, ideato e organizzato dal Circolo della Stampa di Pordenone. Su iniziativa dei singoli autori e su segnalazione del pubblico, i servizi di testate italiane ed estere nel periodo dal 1 luglio 2022 al 30 giugno 2023 potranno essere inviati alla segreteria del premio entro il 10 luglio prossimo. Tutti i dettagli sul sito www.stampa-pordenone.it. Come sempre, le condizioni indispensabili a che i servizi riguardino direttamente o indirettamente il Friuli Venezia Giulia in almeno una delle seguenti chiavi narrative: locale, regionale, nazionale, internazionale. Le categorie congressuali sono 5: inchiesta, sport, artigianato, turismo, infortunistica, sul lavoro. Sono le 12.55 e 25 secondi, questa era la nostra ultima notizia. Ha collaborato in redazione Cristina Polselli, per la parte tecnica Bruno Montevecchi e Mauro Cumin. Da Anna Vitaliani, Armando Mucchino, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.